Noi non volevamo! Non volevamo far male a nessuno! Io non ne voglio più parlare! Non lo voglio più sentire! Non serve a niente! Io vado. Mi aspettano. Tanto non dirà niente, ho paura. Chi? Chi ha paura? Io non posso. E non c'era. Era come quella notte. Non riuscivamo a dormire per paura del referendum, per la generazione. Siamo rimasti svegli. Fino a tardi. Il latte caldo come facevamo da bambini. Poi lei si è addormentata nel buio. Non si è neanche accorta che avevo messo sulle gambe la copertina di lana grigia, quella che mamma usava davanti alla TV. Non si è accorta quando ha squillato il telefono. Dove vanno? Mi hanno detto mamma e papà. Restate a letto, è successo qualcosa alla scuola. Luca Ricci, coautore dello spettacolo Piccola Patria, a Roma, Teatro Argo Studio, dal 20 al 23 febbraio 2020. Luca, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te Federico e a chi ci ascolta. Lo descrivi? Sì, partiamo dalla situazione, insomma. Allora, siamo in una città, un paese non specificato, di una provincia generica italiana, si sa solo che è un paese di 5.000 anime e che l'intento di questo paese in queste giornate in cui noi lo fotografiamo è quello di separarsi dal resto del paese per rivendicare una propria indipendenza, autonomia, insomma, e sovranità diretta. Questo si basa su alcune storie di un passato, non meglio precisato, ma insomma ogni territorio del nostro paese ha in qualche modo una propria storia di specificità rispetto agli altri, e noi lo leggiamo, lo vediamo questo luogo nel giorno precedente, nel giorno stesso e nel giorno successivo a questa votazione, in questo referendum. Il punto d'osservazione è il seggio elettorale, quindi ci sono tre personaggi che dentro questo seggio elettorale si fronteggiano, e credo che la parola sia abbastanza giusta per fotografare la situazione rispetto a questo tema di questa sovranità che viene rivendicata. Da dove viene fuori questo spettacolo? Dal nostro tempo, insomma, questo è un tempo dove ognuno è pronto a rimarcare i propri confini, ognuno a dire che farà il padrone a casa propria, ognuno a dire che insomma la sovranità appartiene a quelli che sono uguali e che quelli che vengono dall'esterno sono sempre dei nemici, creano disarmonia, i problemi vengono tutti da lì, insomma è chiaramente una situazione limite quella che noi raccontiamo, ma fatta apposta, come credo che il teatro debba fare, anche per suscitare domande, reazioni, insomma, esprimere punti di vista divergenti. dentro un seggio elettorale, come avete pensato di strutturarlo? Il pubblico che verrà vedrà realmente le operazioni di scrutinio, di voto, insomma, di preparazione del seggio. Ci siamo molto documentati, io da ragazzino ho fatto veramente lo scrutatore un paio di volte e quindi, insomma, anche chi lo fa con maggiore continuità di me ci ha detto che siamo stati, come dire, rispondenti al vero. Però, insomma, ecco, al di là della situazione che, come si capisce, anche un pretesto, è chiaramente politico, insomma, la prospettiva in cui lo spettacolo si pone, e senza dare, come dire, un punto di vista univoco, proviamo, insomma, a mettere in campo le ragioni degli uni e degli altri, però, insomma, prova a riflettere su alcuni temi del nostro tempo. Poi c'è anche il passato, in realtà, che riemerge in questa storia, che c'è anche degli aspetti nella struttura anche un po' gialli nel senso di genere giallo, nel senso che mano a mano vengono dati allo spettatore alcuni indizi per ricostruire alcune vicende del passato, di un passato recente, insomma, di 10 anni fa si parla, che pesano su quel presente, insomma, e quindi che lo condizionano. La composizione di questo cast? Sono 3 attori con cui io e Lucia Franchi, che ha scritto appunto il testo con me, come si diceva, sono 3 attori con cui noi abbiamo già lavorato nel nostro lavoro precedente, che si chiamava La lotta al terrore, che anche quello, insomma, provava a fotografare uno squarcio del nostro tempo legato appunto alla paura dell'attacco terroristico, che ha condizionato molto le nostre vite, soprattutto di cittadini di contesti metropolitani, insomma, negli anni scorsi. Spero, insomma, che sia finita, speriamo. E i 3 attori erano e sono anche questa volta Gioia Salvatori, che nel contesto romano è piuttosto ben conosciuta per un blog satirico molto intelligente, molto anche divertente, che si chiama Cuoro, Gabriele Paolo Ca, che è anche lui autore, drammaturgo e attore, uno degli attori più bravi con cui mi è capitato di lavorare, in verità, che ha fondato un gruppo, insomma, che nella rinnovazione nel teatro di ricerca sta avendo, insomma, una serie di riconoscimenti, che si chiama Vico Quarto Mazzini. E il 3° attore Simone Falop, anche lui un autore, attore, a cui noi siamo molto affezionati per averci anche fatto numerosi spettacoli in passato, e quindi, insomma, sono un trio molto affiatato, molto generoso. Sono 3 attori che però hanno appunto anche un loro percorso autoriale, e questo da regista genera, come dire, forse anche una difficoltà maggiore nel lavorarci, perché sono 3 attori che hanno sempre il loro punto di vista, però è anche stimolante perché ti danno molto di più di un attore che è un semplice esecutore, insomma, credo che si veda anche poi sulla scena. Che percorso ha fatto e che percorso farà? Lo spettacolo ha debuttato l'estate scorsa al Festival di Asti, che è un storico festival, insomma, del teatro italiano. Ha fatto da allora una, credo, 15ina di date, forse anche qualcosa in più, perché è stato anche una settimana a Milano nel novembre. Nei prossimi mesi, insomma, sarà varie volte in Toscana, nelle Marche, sarà Torino, sarà Napoli, sarà in Sicilia, quindi, insomma, in realtà è uno spettacolo che girerà molto. Sembra, almeno mi pare di poter dire, insomma, che sia stato accolto con favore. C'è un luogo internet dedicato a questo spettacolo? Sì, c'è il sito della nostra compagnia, che si chiama capotrave.com, e lì vedete, appunto, c'è una scheda, ci sono un po' delle recensioni che sono uscite sullo spettacolo, c'è un breve trailer, ci sono delle immagini, insomma, così, per farsene un'idea. Piccola Patria a Roma, Teatro Argo Studio, dal 20 al 23 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al coautore Luca Ricci. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Bene, ci vediamo a teatro, viva il lupo! Con l'attore Fabrizio Gifuni a Roma, al Teatro Vascello, con il vostro irridente silenzio, dal 18 al 23, sempre di febbraio. Fabrizio, ben trovato. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Ci racconti di questa scadenza? Sì, allora, sono 2 studi teatrali su cui ho lavorato negli ultimi 2 anni, molto diversi fra loro. Moro è un lavoro che è nato perché Nicola La Gioia 2 anni fa mi chiese per l'apertura e l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, che avveniva il 9 maggio del 2018, a 40 anni esatti dalla morte di Moro, se avessi avuto piacere a fare un lavoro su Moro. Inizialmente mi aveva chiesto Nicola se volevo lavorare con

dal 18 al 23. Saluto e ringraziamento all'attore Fabrizio Gifuni. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Tamara Bartolini e Michele Baronio in scena a Roma al Teatro India dal 18 al 23 febbraio 2020 con due spettacoli, Tutti in Terra e Dove tutto è stato preso. Bentrovati. Ciao. Ciao, bentrovati a voi. Ciao. Raccontiamo questi due lavori. Ok, allora siamo una settimana in India con due delle ultime produzioni. Tutti in Terra è proprio un po' un debutto romano ed è un testo di Guillaume Poix, un drammaturgo francese, all'interno poi di Fabula Mundi, ed è un testo dedicato alla storia di Vivian Maier, la fotografa. Ci ha appassionato ed è per questo poi che ce lo siamo proprio un po' messo addosso, quindi è stato proprio un incontro sia con Guillaume e con la traduzione di Attilio Scarpellini e con questo personaggio misterioso che è Vivian Maier. E abbiamo lavorato appunto di nuovo ad una biografia che è un po' una nostra vocazione. Quindi i primi tre giorni, 18, 19, 20, siamo con Tutti in Terra e il 21, 22 e 23 finalmente riportiamo a Roma, che c'è stato veramente solo per due giorni, uno dei nostri ultimi lavori, che ha anche dato via tutta la ricerca e l'indagine che stiamo facendo sulla casa e sull'abitare, che è Dove tutto è stato preso, che aveva debuttato a Teatri di Vetro nel 2017, che prende spunto da un romanzo di Thomas Bernhard, Correzione, per parlare di rovine, di cosa lasciamo e di che cosa è casa per la nostra generazione. Vivian Maier è una fotografa conosciuta postuma. Sì, infatti per quello prima parlavo di un personaggio misterioso, perché in qualche modo è un incontro con una storia smarrita, no? Cioè, ci sono questi 150.000 negativi che sono stati ritrovati, ammassati, insomma, nel corso di una vita intera, ritrovati dentro un ripostiglio, e che hanno fatto la fortuna sicuramente di chi li ha ritrovati, ma più che altro, insomma, ci hanno rivelato queste fotografie straordinarie fatte da questa donna che era una babysitter e che lungo la sua vita, dagli anni 50, diciamo, alla metà degli anni 80, ha fotografato ininterrottamente ogni giorno. Per strada, ha fotografato per strada. Era anche un personaggio controverso, nel senso che poi almeno il ritratto che ne viene fuori postumo è anche un po' quello, nel senso che la parte, quella babysitter governante, è in qualche modo un po' in bilico, perché ci sono testimonianze, insomma, anche di come dire, di una durezza, no, di questa donna. In realtà poi la cosa interessante è che è anche il rapporto con questa figura, cioè anche piaciuto tanto, ci ha anche mosso tutta una ricerca, un'indagine su che cos'è anche l'identità, no, dell'attore sulla scena. Il testo parla tanto anche di questo e questo ci ha interessato, come le vite degli altri, le vite che lei ha ripreso, ma la stessa sua vita poi diventano traduzione, no, anche scenica, e possibilità di essere riraccontate. In qualche modo ci ha messo di fronte al fatto che forse poi siamo tutti ombre, come anche abbiamo messo questa citazione da una poesia di Montale, e rimaniamo inafferrabili, no? C'è un mistero dentro ognuno di noi, e con questo mistero un po' lottiamo sulla scena in questo spettacolo, per quanto riguarda, dico, Vivian Maier. Ci raccontate anche un po' la messa in scena, su cosa avete centrato i due lavori? Abbiamo collaborato ancora per entrambi, in realtà di Tutta Intera proprio firma il disegno luci Gianni Staropoli, c'è Lorenzo Danesin in Tutta Intera che cura il suono. Il suono da fuori, e Michele Poreggio invece per Dove tutto è stato preso. L'artista Raffaele Fiorella collaborato in Dove tutto è stato preso nella parte video finale. C'è anche la collaborazione di Raffaele Fiorella, che ha curato questa opera video finale che lo spettacolo in qualche modo ingloba e ospita. Lo spazio è comunque quello della ricerca, e quindi è uno spazio, diciamo, vuoto da disegnare, e in questo caso, nel primo caso con Vivian Maier, sicuramente il riferimento è anche alla camera oscura, cioè camera oscura un po' in tutti i sensi, nel senso anche quel passaggio che alla Maier è mancato, no? La stampa, la rivelazione della sua opera, e quindi lavoriamo con un fondale che in qualche modo ci riporta a un supporto fotografico, lavoriamo con la lavagna luminosa, con dei materiali sia analogici che, insomma, che digitali, con la musica e con la musica in scena, con in entrambi i casi. Nel caso di Lidia Meyer sono anche molto interessanti le foto che sono venute fuori, che lei faceva a se stessa, gli autoritratti, gli sensi, che venivano sempre fatti su superfici riflettenti, che potevano essere uno specchio di due trasportatori per strada, e lei si metteva in posizione per fotografarsi, una vetrina, una pozzanghera, e quindi in qualche modo questo rimbalzo, no, dell'identità ci rimbalzava anche come contenuto, e in questo caso musicalmente, insomma, ci abbiamo lavorato molto anche con i delay, quindi con il rimbalzo del suono e delle voci. Ha collaborato anche a questa cura delle immagini Maddalena Parise, e in generale anche due progetti Margherita Masea, entrambi i soggetti, insomma, una grafica e nei ragionamenti, ci accompagna sempre la nostra 369 gradi. Siamo molto contenti di stare questa settimana al Teatro India, di portare questi due lavori che sono diversi, però chiaramente hanno in comune un'indagine che è la nostra ricerca, ed è stato anche interessante lavorare al testo di un'altra persona, no? Cioè, se dove tutto è stato preso nasce dalla nostra scrittura, anche dalla modalità con cui lavoriamo, no? In dove tutto è stato preso abbiamo fatto tantissime interviste a Taranto, nella prima residenza, come al solito queste interviste poi vengono tradotte drammaturgicamente, nel primo caso, in tutta intera, ci siamo trovati, no, a confrontarci con un altro autore, con una traduzione anche, ed è stato, devo dire, molto forte come incontro. Ecco, diciamo che la moltiplicazione dell'identità c'è su più livelli anche nel processo di lavoro. In chiusura ci lasciate tutti i riferimenti per saperne di più sulla vostra attività e sui due spettacoli? Certo, allora, dal 18 al 23 stiamo per una settimana al Teatro India, 18, 19 e 20 con Tutti Intera, testo di Guillaume Poix sulla vita e la storia di Lidia Meyer, e dal 21 al 23 con lo spettacolo Dove tutto è stato preso, che è l'ultima scrittura originale nostra, della compagnia, al centro il tema della casa e dell'abitare in una casa assediata dai tarli, cerchiamo di capire che cosa lasceremo, Dove tutto è stato preso c'è ancora un giardino di cui prendersi cura, questo forse ha comune entrambi gli spettacoli. E poi da marzo ci ritroverete con i Red Reading al Teatro di Villa Torlonia, poi magari ci prendiamo anche un altro tempo per raccontare di questa nuova stagione. C'è la vostra pagina Facebook, giusto? Sì, c'è la pagina Facebook, a breve uscirà anche il sito, e quindi ci potete continuare a seguire sia su Facebook, su Instagram, e a breve sul sito Bartolini Baronio. Tamara Bartolini e Michele Baronio, in scena a Roma al Teatro India dal 18 al 23 febbraio 2020. Saluto, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a te e a tutti voi. Grazie. Ciao. Con Ilaria Migliaccio di Franca Battaglia Teatro, regista dello spettacolo Fluid, in scena a Roma al Teatro Studio 1 dal 20 al 23 febbraio 2020. Ilaria, ben trovata. Ciao, ciao Federico, buongiorno. Ci presenti questo lavoro? Sì, certo. Nasce da un percorso di un anno, iniziato l'anno scorso durante un laboratorio permanente di Franca Battaglia Teatro. Da questo lavoro sono nati questi personaggi che sono confluiti poi in questo spettacolo, e che è entrato a far parte della stagione di Studio 1 di Regioni Ostinate dopo aver passato il bando pillole dell'estate scorsa. Il percorso laboratoriale che avevamo fatto l'anno scorso si chiamava Oltre il genere, e nasce proprio dall'idea di voler scardinare gli stereotipi di genere, per questo anche questo titolo, che in realtà è il nome che abbiamo scelto per questo palazzo, questo condominio abitato da 7 persone, 7 corpi che si incastrano con le loro vite, la loro complessità e la loro umanità. Ecco. Come si dipana il racconto? tutto nasce da questa idea un po' folle, ispirandosi anche, mi sono ispirata a Orson Welles e all'annuncio che lui fece a suo tempo durante la trasmissione radiofonica. Si pensava che fossero arrivati gli alieni e io invece ho immaginato che stesse cadendo un meteorite su questo condominio con una latitudine e una longitudine precisi. Entro un'ora questo condominio rischia di essere distrutto. Ovviamente il meteorite è un pretesto per raccontare con urgenza in un'ora di tempo come queste vite riescono comunque a lottare e ad andare avanti restando unite, questi corpi, al di là di tutte le etichette che vogliono affibbiarsi, al di là di tutte le vicissitudini e le difficoltà che vivranno, riusciranno comunque a spuntarla stando insieme, ecco, a superare questo evento che può sembrare anche assurdo, ma che li farà stare ancora più uniti, ecco. 4 giorni a Roma, poi proseguirà il suo percorso, il lavoro? Abbiamo già delle date fissate al Teatro di Scala, che è questo spazio che è nato da 2 anni qui a Ostia Antica. E dico qui a Ostia Antica perché io vivo a Ostia Antica e quindi questa nuova realtà che è nata da poco ci sta muovendo i suoi passi e siamo contenti di farlo anche lì, saremo lì l'8 e il 9 maggio, sì. E contiamo ovviamente di partecipare a bandi e festival, ovviamente è il debutto e siamo molto contenti e anche molto emozionati, ecco. Curiosi di sapere come risponderà il pubblico, ecco, a questo progetto. Ci parli anche un po' dell'esperienza Franca Battaglia Teatro? È il nome d'arte che ho voluto dare al mio progetto artistico, che vuole dire una lotta, consapevole che fare questo lavoro è una lotta, una battaglia, ma bisogna farla a viso aperto, con onestà e con sincerità, sia nei contenuti che nel lavoro, di come si porta avanti questo lavoro che comunque richiede una grande fatica. Nasce a Napoli nel 2008-2009 con un progetto che era La Bella Lena, che è andato poi in scena sia al Fringe Festival a Napoli, a Teatri di Vetro, ha partecipato a Scenario nel 2009, è andato a Matera, al Teatro dei Sassi di Matera, a Galleria Toledo a Napoli, e da lì poi i progetti si sono andati sviluppando con un gruppo che inizialmente nasceva a Napoli e poi piano piano io ho spostato il mio centro d'azione qui a Roma e ho creato questo collettivo, appunto, Franca Battaglia Teatro, in occasione di questo progetto. Il laboratorio Franca Battaglia Teatro va avanti a Roma ormai da 10 anni circa, per cui si sono avvicendate persone che magari non facevano neanche questo lavoro, ma poi sono diventate poi, senza neanche accorgersene, dei professionisti, perché il teatro richiede poi una passione e un'insistenza che non sono così scontate, ecco, bisogna insistere. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? C'è la pagina Facebook Franca Battaglia Teatro, il sito è blogspot.com, sempre fa Franca Battaglia Teatro, blogspot.com, e poi c'è il Teatro Studio 1, al quale bisogna, sì, per info e prenotazioni per lo spettacolo, ecco, per le serate di febbraio, dal 20 al 23 febbraio. Fluid a Roma, Teatro Studio 1, dal 20 al 23 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento alla regista Ilaria Migliaccio per Franca Battaglia Teatro. Ilaria, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, grazie mille, ciao. Con il regista Walter Pagliaro per parlare dello spettacolo Spet a Roma al Teatro Palladium dal 20 al 24. Walter, ben trovato. Buongiorno a voi. Raccontiamo questo progetto? Certo, molto volentieri, perché è un testo straordinario su cui stiamo lavorando per cercare di rendere al meglio il pensiero di Ibsen, che è di questi tempi molto attuale, per cui anche se il testo è stato scritto nel 1882, come accade spesso ai grandi classici, siamo in presenza di intuizioni che riguardano l'oggi nella maniera più totale, e il nostro allestimento è in fondo anche molto improntato all'oggi, non è un allestimento con datazione ottocentesca e quindi si rivolge direttamente al pubblico contemporaneo. I nomi degli attori, che sono Micaela Esdra, Giorgio Crisafi, Igor Battei, Fabrizio Micucci, Dario Lareas e lo scenografo è Luigi Perigo, che è uno dei più grandi scenografi italiani. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche brevemente la storia. Sì, la storia è molto semplice da raccontare. Siamo alla vigilia dell'inaugurazione di un istituto di beneficenza, un orfanotrofio, che viene intitolato alla memoria di un personaggio, diciamo, illustre della regione norvegese, una sorta di onorevole, quindi un uomo politico molto festeggiato, molto celebrato nella sua circoscrizione, diciamo così, nella sua regione. Quest'uomo è defunto da 10 anni, a quest'uomo illustre viene dedicato una cittadella, diciamo, religiosa, una cittadella anche della solidarietà, ed è una sorta di monumento che viene eretto anche con l'auspicio del comune, quindi della città. E quando comincia il testo, siamo proprio alla vigilia dell'inaugurazione di questo istituto. Da Parigi è tornato anche il figlio di questo onorevole, che lì ha studiato come pittore, diciamo, ha cominciato la sua attività come pittore, ma dal momento in cui si alza il sipario comincia, come sempre accade in tutti i testi di Ibsen, una straordinaria e folgorante revisione del passato, per cui pian piano, lentamente, si comprende che in realtà quest'uomo è stato un vero depravato, un debosciato, una persona dedita alla deboscia più totale, e quindi tutta questa generosità nei confronti della sua memoria si rivela essere un'ipocrisia, come spesso accade, per coprire in realtà le malefatte di quest'uomo, che sembra essere stato addirittura uno smidollato, un minus habens, una persona molto leggera, ma ciò non di meno molto accreditata presso la sua città. Il ritorno del figlio da Parigi doveva essere anch'esso una festa, ma in realtà il figlio ritorna malato, esattamente come il padre, malato di sifilide, quindi o oggi potremmo dire di AIDS o di qualcosa del genere, quindi con una tara ereditaria che, come sempre accade in Ibsen, in questi scrittori, significa anche una tara sociale. Ed è questo il fulcro sostanziale del testo su cui Ibsen ci invita a riflettere. Qualunque situazione avvenga dentro una società capitalistica, qualunque prospettiva è sempre soffocata da una tenaglia, diciamo, che stronca il libero pensiero. E la protagonista femminile di questo testo, che è la madre di Oswald, del pittore, è la moglie, la consorte del defunto onorevole Sporcaccione, è in realtà una donna che ha tentato, dopo la morte del marito, di emanciparsi, di diventare una donna contemporanea, una donna moderna, ha studiato, ha lavorato, quindi ha preso il posto dell'uomo nella società, ma tutti i suoi sforzi si fermano a un passo dal successo. Aveva progettato per il figlio una grande espansione mentale, culturale, nella Europa civile, voleva ricongiungersi a lui e quindi ha studiato anch'essa per espandersi nel libero pensiero anche lei. A un passo dal coronamento del sogno, tutto frana, tutto crolla, il marito si scopre essere un maiale, il figlio si scopre essere malato e quindi avviato disperatamente alla stessa conclusione esistenziale e ferale del padre. Quindi tutto si richiude in sé e quindi Ibsen ci dice che la borghesia, che in quel momento era in ascesa trionfante, è in realtà una palude dentro cui tutti affondiamo. Ecco, cosa apprezzi del testo di Ibsen e poi su quali aspetti hai voluto centrare l'attenzione? Quello che apprezzo del testo di Ibsen è naturalmente tutto, perché il testo è fantastico ed è scritto in una maniera divina ed è anche tradotto da Franco Perrelli, che è uno scandinavista, mio amico, molto bravo, assolutamente straordinario. Su che cosa io abbia centrato lo spettacolo, ma è semplice da dire, nel senso che noi abbiamo ambientato lo spettacolo in una specie di piccolo teatro, di teatro intimo, così come il teatro di Strindberg a Stoccolma, che si chiama Intima Theatern, come a raccontare, come una sorta per espletare, diciamo, una sorta di omaggio nei confronti del teatro, come luogo in cui vengono messi a nudo le crisi familiari, le crisi sociali. Il teatro è veramente il luogo deputato a smascherare, diciamo, le ipocrisie, a smascherare gli inganni, a smascherare la disonestà. E quindi in questo senso, in questo momento in cui in fondo ogni tanto si ragiona su quanto sia obsoleto il teatro o meno, noi invece con passione e con fiducia ne riaffermiamo la totale incisività nella società contemporanea. Petri di Ibsen a Viterbo, al Teatro Caffeina, 15 e 16 febbraio, a Roma, al Teatro Palladium, dal 20 al 24 febbraio. Un saluto e un ringraziamento al regista Walter Pagliaro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro. Con Andrea Brunello, co-direttore della quarta edizione del Festival di Teatro e Scienza Teatro della Meraviglia, a Trento al Teatro Sambapolis e Teatro Portland dal 19 al 29 febbraio 2020. Andrea, ben trovato. Grazie, è un vero piacere essere qui con te e con i tuoi ascoltatori. Raccontiamo cos'è questa creatura. Questa è la quarta edizione di un festival che va ad esplorare una cosa che personalmente mi sta molto molto a cuore, cioè la connessione fra quello che è il teatro e le arti sceniche e le tematiche scientifiche. La scienza continuamente ci modifica il modo di vivere, il modo di pensare, addirittura la filosofia stessa della vita e la concezione di quello che è essere umani, diciamo, e quindi il teatro diventa uno strumento molto molto interessante per raccontarla, e quindi non raccontare la fantascienza, ma veramente raccontare in che modo questa creatura impatta con la nostra esistenza. Ecco, il Teatro della Meraviglia va esattamente lì. Quanti lavori proponete in questa edizione? Questa edizione prevede quattro spettacoli scelti fra il meglio che la produzione italiana riesca ad offrire, spettacoli che toccano temi scientifici, e poi sei di quelle che noi chiamiamo augmented lecture, cioè lezioni aumentate. Questo vuol dire questo: sono delle lezioni tenute da ricercatori e professori universitari, però aumentate dalla presenza di artisti in scena con loro, in modo che si possa sviluppare anche l'aspetto più empatico, l'aspetto più, diciamo così, istintivo di pancia, che a volte invece nella lezione vera e propria viene un po' tralasciato. E quindi in tutto abbiamo questi 10 appuntamenti, e poi c'è un altro appuntamento a cui tengo tantissimo, che si chiama Progetto Apollo, che è una carrellata di racconti e storie incentrate attorno alle esperienze di diversi ricercatori scientifici dell'Università di Trento, dove questo progetto Apollo cresce e si sviluppa. Queste sono brevi lezioni, brevi momenti di storytelling tenute da ragazzi e ragazze dell'università, studenti che seguo io personalmente, che da anni, insomma, portano avanti un percorso di narrazione scientifica, ed è estremamente interessante perché loro interagiscono con questi ricercatori, vanno a scavare, diciamo, ancora in dettagli della loro vita privata, e poi ce li raccontano, in qualche modo raccontando non soltanto la scienza, quindi, ma anche il perché fanno scienza, il come, quali sono i loro dubbi, le loro perplessità. Quindi, insomma, è un festival che va un pochino a vedere tantissimi aspetti della vita di questi scienziati, e non soltanto la scienza dura, ecco, ci tengo a dirlo, ma anche scienze come appunto filosofia, letteratura, sociologia. Pensa che abbiamo addirittura un ricercatore che si occupa di future studies, cioè gli studi che guardano al futuro per capire quali sono i futuri che ci aspettano e dove vogliamo andare noi. Quindi ce n'è per tutti, e infine aggiungo che non è necessario essere degli esperti, anzi, insomma, è bello venire con gli occhi aperti, con la curiosità, e lasciarsi un pochino meravigliare da queste storie che verranno raccontate. Ecco, proprio a questo proposito, in che rapporto mettete la scienza con il teatro? Il punto è questo, la scienza ci offre dei modi di vedere la nostra esistenza che sono sempre nuovi. Ti faccio degli esempi, la biologia che ci racconta per esempio che noi siamo composti per esempio di tanti batteri, insomma, e quindi forse chi siamo noi veramente, forse noi siamo soltanto un agglomerato di questi batteri che ci danno addirittura la coscienza, oppure la fisica quantistica che ci racconta che noi esistiamo in qualche modo in un mondo fatto più di probabilità che di certezze. Ecco, tutto questo diventa materia teatrale proprio perché ci permette di mettere in dubbio addirittura i motivi stessi della nostra esistenza, ed è lì che andiamo a cercarlo. Gli stessi ricercatori che poi fanno queste narrazioni, a loro viene chiesto di andare a trovare i temi che collegano la loro ricerca con gli esseri umani e quindi con il pubblico che li ascolterà. Quindi non è scienza e basta, ma è una scienza esistenziale, se vogliamo, anche quando parlano, toccano tematiche estremamente rigorose, appunto come la chimica, come la biologia, la fisica. È lì che ci interessa veramente andare, ed è la sperimentazione che stiamo facendo da diversi anni. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Molto volentieri. Il sito di riferimento è teatrodellameraviglia.it. Poi ci sono chiaramente le pagine Facebook, Instagram e così via. Si trova tutto, ma l'idea, diciamo, la cosa migliore è partire da teatrodellameraviglia.it. Le date sono dal 19 al 29 di febbraio. E siamo a Trento, Teatro San Bapulis di Trento, con una puntata anche al Teatro Portland. Comunque, insomma, dal sito poi si ricava tutto quello che serve. E infine lasciami dire che il Teatro della Meraviglia è un'idea, è una produzione non soltanto nostra, ma sì, insomma, supportata al massimo dall'Università di Trento e dall'Opera Universitaria, oltre che dal Teatro Portland e dalla compagnia Ardito del Rio, quindi insomma un'accordata di diverse realtà che operano su questo territorio. Quarta edizione del Teatro della Meraviglia a Trento dal 19 al 29 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Andrea Brunello. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, un abbraccio forte, prestissimo. Con Laura Siciliano, regista dello spettacolo Antigone, a Milano al Teatro Carcano dal 20 febbraio al 1 marzo 2020. Laura, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Raccontiamo un po' questo progetto? Volentieri. Il progetto nasce come prima regia a Catania, dove da 2 anni sono nuovo direttore, con un segno di grande discontinuità dopo, diciamo, un percorso abbastanza drammatico di questo stabile che è stato commissariato, ha rischiato di fallire per debiti, e poi il nuovo consiglio di amministrazione, in seguito ad un bando di evidenza pubblica, ha scelto me appunto per condurre il teatro fuori dalla crisi, speriamo di riuscirci, e di risanare, insomma recuperare anche il rapporto con il territorio, col pubblico, la fiducia degli altri teatri. Quindi qua a Catania il mio ruolo principalmente per il primo anno è stato quello di amministratore, di buona madre di famiglia, quindi di gestione, ecco, e di ristrutturazione. A questo proposito volevo chiederti il rapporto con la città in quest'anno, come si è sviluppato? All'inizio c'era sicuramente molta diffidenza, perché nella lunghissima storia di questo teatro solo una volta il direttore è stato di fuori Catania, e quindi curiosità, diffidenza, però devo dire che nel giro di pochi mesi i risultati si sono visti, e adesso dopo 2 anni i risultati sono fortemente tangibili, perché abbiamo avuto un aumento altissimo delle presenze, sia di, diciamo, di abbonati che di scuole che di giovani, un rapporto molto stretto con l'università. Qualsiasi iniziativa anche collaterale, letture, conferenze, mostre, laboratori, sono frequentatissimi dalla città, quindi sono molto contenta. È molto bello lavorare qui perché è una città curiosa, vivace, ama il teatro. Poi ci sono dei problemi strutturali di questo ente dovuti appunto al debito, però cercheremo di fare del nostro meglio tutti quanti. di uscire da questo momento delicato. Abbiamo bisogno ovviamente dell'aiuto delle istituzioni, perché siamo un teatro stabile, quindi questo è. E Antigone si pone un po' anche in questo contesto, cioè che testo scegliere come prima regia mia in questo luogo oggi qui. Allora, una tragedia, perché Catania, questo territorio, è fortemente intriso di grecità, la si sente, la si vede nell'architettura, negli spazi, la si sente nella dialettica delle persone, e quindi c'è una conoscenza qui che si respira, proprio che si sente nel DNA della grecità. Antigone, un personaggio femminile, tu sai, avendo seguito il mio lavoro, che ho da sempre un'attenzione particolare per le eroine, soprattutto se perdenti, soprattutto se sconfitte, e mi piace dare voce a chi non ha avuto voce. Antigone un po' incarna tanti dei miei personaggi del passato, che appunto combattono una guerra che si sa perduta in partenza, ma lo fanno per coerenza ad un principio. Si scontrano contro qualcosa di molto più forte di loro, ma c'è un istinto a dire no, c'è un istinto alla ribellione, c'è un principio, una rettitudine morale che vince ogni cosa, forse poi porta questi personaggi, Antigone in particolare, a essere anche poco amabile, perché la sua coerenza poi porta ad un conflitto insanabile e alla rovina, perché non è disponibile al dialogo, ma il problema è Creonte, il detentore del potere, è colui che dovrebbe gestire il conflitto, perché è adulto e perché è, appunto, il detentore del potere, ma Creonte non sa ascoltare, non sa cambiare e non sa gestire il conflitto, quindi trova di fronte ad una, lui la definisce nella nostra traduzione, pazza terrorista, una sovversiva, in più donna, no? In una società, quella di allora, dove le donne erano veramente relegate ad un ruolo molto molto marginale, e quindi Antigone, eroina della diversità, figlia di un incesto, quindi diversa per proprio quasi per DNA, osa dire no, contrapporsi a questo potere appena insediato, che però emana un decreto non per cattiveria, ma perché vuole ripristinare l'ordine. Siamo all'indomani di una guerra civile. Teocle e Polinice, fratelli di Antigone, anche loro figli di un incesto, figli di Edipo e nipoti di Creonte, tutto un gioco in famiglia, no? Poi alla fine è un'elite di potere di famiglia. I fratelli si sono uccisi e Creonte si trova re, forse suo malgrado, forse non se l'aspettava, e deve decidere dove sta bene e dove sta il male, chi sono i buoni e chi sono i cattivi, deve scrivere la storia, come spesso avviene, riportare l'ordine. E cosa fa? Decide che appunto uno dei fratelli non deve essere sepolto. Questa cosa è inaccettabile per Antigone, perché la sepoltura è ciò che contraddistingue l'uomo dagli animali, è ciò che dà dignità alla persona. Quindi non dare sepoltura a una persona, anche se colpevole, per le leggi dello Stato, significa di privarla della dignità, dell'essere persona, e questo per Antigone non è accettabile, ed è molto bello, è molto nobile, ma porterà a un conflitto insanabile. Sofocle determina conflitti fortissimi in questa tragedia, che è il conflitto tra generi, il conflitto tra generazioni, il conflitto tra principi. E non esiste una legge soprannaturale, non esiste un Deus ex machina che verrà a sciogliere questi nodi. Quindi è bello il pubblico, quando esce, parla, discute, approfondisce, e quindi ancora oggi, dopo 2500 anni, questo testo fa pensare. Questo è molto bello. Su quale aspetto del personaggio Antigone hai voluto mettere l'accento? Sull'Antigone intransigente, la rettitudine che la porta decisamente al martirio. Lei è molto consapevole di quello che fa e delle conseguenze di quello che fa. C'è un lato anche un po' di delirio, no, in questo, narcisismo se vogliamo, in questo voler essere martire unica, perché quando la sorella vuole unirsi a lei, lei la rifiuta, vuole essere exemplum. Poi è molto interessante, la rende umana il momento in cui i soldati la murano viva e lei lì perde la sua determinazione, perché un conto è sognare la bella morte, no? Un conto poi è trovarci in mezzo, forse la morte non è tanto bella, quindi lei lì diventa più umana e forse più vicina agli spettatori, altrimenti Antigone è quasi glaciale nella sua determinazione. È una santa martire, una Giovanna d'Arco, insomma abbiamo parlato di tante cose, tante vicende anche di cronaca non potevano non intersecarsi con questa storia. Il pubblico esce citando personaggi della nostra contemporaneità, i fatti della nostra contemporaneità. E questo è molto bello, però non abbiamo schiacciato Sofocle sulla contemporaneità, cioè non ci sono riferimenti espliciti, ma sono lampanti. Li comprende il pubblico, sono nel pubblico, sono le nostre storie. Poi continuerà il suo tour, lo spettacolo. Beh sì, ha avuto una bellissima storia, ha girato molte piazze siciliane, poi abbiamo risalito lo Stivale, Napoli, Genova, Trieste, Treviso, Firenze sarà l'ultima tappa, Palermo, tante città ci hanno ospitato. Devo dire, la cosa molto soddisfacente è l'accoglienza di tanto pubblico, perché questo è un personaggio, un testo che attira moltissimo il pubblico oggi, e tanti giovani molto contenti. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più su questo lavoro? Beh, abbiamo un profilo Facebook, il Teatro Stabile di Catania ha un profilo Facebook, ha un profilo Instagram e poi un www.teatrostabilecatania.it. E sì, questo direi che è il più immediato. Antigone a Milano al Teatro Carcano dal 20 febbraio al 1 marzo 2020, un saluto e un ringraziamento alla regista Laura Ficignano. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, viva! Siamo all'appuntamento con la settimana teatrale romana, il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Cosa andiamo a vedere questa settimana? Vediamo un po'. Allora, intanto Albelli, Ivan Bellavista presenta il suo nuovo lavoro, Meglio stasera che domani, uno spettacolo che appunto lo stesso Bellavista ha scritto con Sandra Conti e che insieme ad altri direttori si porta in scena, sono due di loro, mattatori mefistofelici che piombano dirompenti nella perfetta e patinata realtà di una coppia che vive nella normalità di una casa come tanti. Quindi due binomi in qualche modo, quello più sereno e tranquillo che vive nella sua tranquillità e chi arriva a scombinare un po' i piani. Che cosa combineranno? Lo vedremo dal 18 al 23 di febbraio al Teatro Belli con Meglio stasera che domani, Ivan Bellavista. Poi ancora andremo questa settimana anche allo Spazio Diamante, perché dal 20 febbraio, dal giovedì 20 febbraio fino al 1 marzo, lo spettacolo Tebas Land di Sergio Blanco con in scena Ciro Masella, che ben conosciamo, sulla produzione Pupi e Fresette Teatro e del Teatro di Rifredi, appunto se ne sarà in scena al Teatro dello Spazio Diamante, un'opera di questo drammaturgo franco-uruguaiano che in questi ultimi anni sta calcando soprattutto i palcoscenici italiani. Nel recinto di un campetto da basket in una prigione ci sono una serie di colloqui, c'è il giovane che ha compiuto un parricidio, il drammaturgo che vorrebbe portare in scena la sua storia. Poi una serie di ragionamenti che ricostruiscono come un documentario il crimine e si soffermano poi sulle relazioni tra lo scrittore e il detenuto e su quello che poi la trasposizione della realtà, una creazione artistica, sui problemi che pone qualcosa del genere quando ci si tratta di un crimine efferato. Lo spettacolo appunto sta in scena dal 20 febbraio fino al 23 allo Spazio Diamante. Cos'altro? Fabula Mundi al Teatro India presenterà un lavoro, ma due saranno i lavori della compagnia Barzolini Barocio. Il primo è appunto quello che, tradotto da Tilio Scarpellini, un testo di Guillem Bois, e Barzolini Baronio lo porteranno in scena dal 18 al 20 febbraio al Teatro India, si chiama Tutti Intera, una riflessione da camera oscura che indaga la figura della bambinaia fotografa americana Vivian Meyer, uno dei talenti più sorprendenti della street photography del Novecento, insomma conosciamo per i suoi scatti meravigliosi e così particolari. Questo testo appunto è nell'ambito di Fabula Mundi Playwriting Europe ed è appunto una traduzione di Guillem Bois che porta all'interno della vicenda di questa grande fotografa. Il secondo lavoro di Bartolini Baronio che mi preme segnalare è sempre al Teatro India e si tratta del loro ultimo lavoro Dove tutto è stato preso, dal 21 al 23 febbraio, la regia appunto sempre di Tamara Bartolini e Michele Baronio, e si tratta di una creazione costruita intorno al tema della casa, intesa come un luogo di concentrazione simbolica della convivenza umana. È un amore inesorabile e loro, il progetto di un cono nel centro di una foresta dove custodire la felicità. Questo è ciò che verrà proposto da Bartolini Baroni al Teatro India per questa settimana. Ci sarà anche giovedì alle 18 un incontro legato al rapporto tra il Novecento, le donne e la fotografia, da Gerda Taro a Vivian Meyer, con Pino Scarpellini, da Mara Bartolini di Michele Baroni e Elena Janecek, che al tema ha dedicato un romanzo che ha vinto il Premio Strega 2018, Gerda Taro, con la scrittura del romanzo La ragazza con la Leica. Questo per quanto riguarda il Teatro di Roma. Ricordo anche che fino al domenica 23 febbraio sarà ancora in scena l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni con Valerio Binasco, e che la stessa domenica 23 febbraio al Teatro India ci sarà la Domenica Indiana, quella del Teatro delle Apparizioni, per i più piccoli, con laboratori e DJ set, piccoli spettacoli, dalle ore 10.30 alle ore 17, e appunto l'occasione è particolare perché è la festa di Carnevale e che si chiamerà Mutanti, con abiti, trasformazioni, insomma, mette la giornata di stare insieme e diventare altro con appunto la trasformazione. Per quanto riguarda il Teatro Eliseo, segnaliamo che nella scatola del Teatro Eliseo c'è ancora il testo di Jean-Luc Lagarce con la regia di Francesco Frangipane e Anna Bonaiuto in scena Giusto alla fine del mondo, la vicenda di lui, morto di AIDS a 38 anni, mentre nella Sala Grande è al debutto I ragazzi che si amano, spettacolo su Jacques Revert di Gabriele Ladia, che sarà in scena fino al 1 di marzo, quindi racconterà le parole d'amore del grande poeta francese, un poeta complesso, un strano poeta che cerca di usare le parole di tutti i giorni per esprimere concetti profondi. Sherlock Holmes dal 18 febbraio sarà in scena alla Sala Umberto con I delitti di Jack lo Squartatore, che saranno appunto messi sotto indagine dal grande ispettore di Scotland Yard. Per quanto riguarda il Teatro Riservi, Mirko Corradini porta in scena per questi giorni fino a mercoledì 19 febbraio My Life, uno spettacolo che scrive e dirige da due attori nella stagione dedicata alla drammaturgia contemporanea. Un uomo sposato e alla ricerca del successo scopre di essere affetto da un tumore in stadio avanzato. Questo è quello che porterà appunto a considerare diversamente la propria vita. Per quanto riguarda invece, certo, Piccola Patria di Lucia Franchi e Luca Ricci, sta in scena al Teatro Argostudio dal 20 al 23 febbraio, ma insomma è l'intero della nostra giornata dedicata a questo lavoro. E io finisco per ricordare due cose fondamentali, tre. Teatro Studio 1 Fluid dal 20 al 23 febbraio, portato in scena da Ilaria Migliaccio, sarà il lavoro anche questo sulla trasformazione e sull'identità di genere, che è un tema ultimamente abbastanza ricorrente. E mancava anche il Teatro Off Theater, appunto il martedì da stasera fino al 20 febbraio, M.A.B. Vedova Giocasta, il testo di Alberto Savinio, che viene diretto da Alessio Pizzi, punto della poetica di Savinio, e parte dal rapporto madre-figlio. Mentre vado a ricordare soprattutto che torna in scena il lavoro dedicato da Julio Cortázar, dalla compagnia Barone Chiari Ferrari, La salute degli infermi, a Spin Time il 22 di febbraio, sabato, e si chiama appunto La salute degli infermi, sarà alle ore 21, racconta a Buenos Aires del 1976. E il racconto dedicato appunto a questo Alessandro che muore mentre è in vacanza, i suoi due fratelli e la fidanzata, e in pensiero per la salute di lui decidono di nascondere la verità alla madre e mettono in scena una sorta di corrispondenza dal Brasile di questo Alessandro che effettivamente invece è scomparso. Ultime cose da ricordare, sicuramente AP Teatro, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, presenta il terzo atto della stagione Resistenza con Supernova, compagnia I Pesci, giovedì 20 febbraio. Davide Iodice presenta in anteprima nazionale questo lavoro, Supernova, è la storia di una famiglia, della sua nascita, della sua disgregazione, un'esplosione stellare provocata da una stella che ne ingloba un'altra più piccola e dà luogo a una reazione violentissima che dura per un certo tempo. Questa è l'idea dedicata da Davide Iodice al concetto di famiglia, e sarà in scena appunto all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, giovedì 20 febbraio. ultimissimo lavoro che vado a ricordare è probabilmente il debutto della settimana, e cioè il lavoro che Fabrizio Gifuni dedica ad Aldo Moro, lo studio sulle lettere della prigionia e sul memoriale di Aldo Moro, dal 18 al 23 febbraio al Teatro Vascello, con il vostro irridente silenzio. Aldo Moro durante la sua prigionia ricorda, scrive, risponde, fa delle accuse, delle confessioni, si congela dalla vita pubblica e dalla vita in senso più largo e intimo. Questo è quello che Fabrizio Gifuni cerca di portare in scena dal 18 al 23 febbraio al Teatro Vascello, e questo, Federico, è tutto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.